Allora appunto cominciamo la giornata di oggi, inizia con il seminario organizzato da me e Gad su storia critica sociale del web 2.0 e abbiamo con noi Annalisa Pellizza e Gaia Novati che avete già conosciuto ieri quando abbiamo presentato il Campo Gad e poi ovviamente loro introdurranno se stesse e siamo molto contenti appunto di averle invitate perché ci porteranno un contributo su questa tematica analizzando l'idea del web 2.0 delle digital communities da diversi punti di vista. Io vorrei fare una piccola introduzione e appunto vorrei un attimo parlare di quello che è stato, cioè l'idea del networking in sé. Perché, come molti saprete, parlando di Web 2.0 adesso, tutti utilizzano con molta semplicità il termine di social networking, un termine che adesso per molte persone può essere nuovo, ma per altre ormai obsoleto, dato che, se pensiamo, l'idea di networking in realtà, circola negli ambienti artistici e attivisti da più di 30 anni. E l'idea di networking in sé, può essere interpretata come la creazione di uno spazio collettivo e partecipativo, in cui una collettività organizza indipendentemente una comunità e da quello evolve un processo che possa essere artistico, attivista o tecnologico. E in particolare c'è una sorta di terminologia che ha accompagnato la storia del networking sin dagli anni 50, se pensiamo comunque che già per chi faceva mail art il networking aveva un senso, cioè networking attraverso lo scambio di materiali postali, pur se ancora non si utilizzava internet come si utilizza oggi. E quindi penso che sia importante, magari prima di tutto, dare una serie di input terminologici sull'idea di networking, comunque accompagnato anche la nascita della nostra comunità, perché AA è comunque, almeno da me e da voi, definito un progetto di networking artistico e anche un progetto di social networking, se vogliamo. Per esempio, quindi termini come do it yourself, decentralizzazione, comunità digitali, sharing, openness, innovazione tecnologica e lo stesso user generated content sono stati utilizzati per 50 anni da comunità che sono nate attraverso le BBS, mailing list, nell'era che noi definivamo cyberpunk. E comunque hanno avuto un significato collegato alla creazione indipendente di progetti che in Italia, per esempio, ha avuto una forte attinenza politica. Infatti, se vogliamo fare un po' un piccolo passo indietro, ricordiamo la mail art, il situazionismo, la cultura hacker, l'attivismo politico, l'activism, il cyberpunk stesso e la net culture degli anni 90, tutti questi termini avevano effettivamente un senso che connotava una serie di pratiche, cioè modelli e tecniche di networking che venivano gestiti e attivati dal basso. Poi che cosa succede? Nasce il web 2.0, almeno così definito nel 2004 da Tim O'Reilly, che è un americano in realtà di origini europee, il quale attualmente è piuttosto il portavoce di questa corrente, se vogliamo chiamarla, organizzando internazionalmente conferenze che avvengono di solito a San Francisco, Tokyo, New York e in Europa a Berlino. Precisamente sono stata l'anno scorso a una di queste conferenze. E sono rimasta un po' allibita perché non mi aspettavo assolutamente di vedere una serie di persone che inneggiava completamente all'innovazione tecnologica utilizzando esattamente la stessa terminologia che noi utilizzavamo 15 anni fa e a cui davamo un significato politico, attivista, acaro, ma che invece era completamente trasportato in un universo opposto. Cioè, magari per spiegare un attimo che cos'è il Web 2.0 per chi non lo conosce, è una terminologia che unisce una serie di piattaforme che sono chiamate appunto di social networking, che sono gestite attraverso protocolli protocollo AJAX che permette una creazione e integrazione di dati in divenire che sono creati dagli stessi utenti. Cioè, per esempio, magari tutti voi conoscete Facebook, è una piattaforma di sharing fra amici, ognuno può creare la propria comunità, il proprio circuito di amici, inserendo anche i propri dati, cioè ti chiedo di inserire appunto la data di nascita, professione, educazione, eccetera, eccetera, e attraverso l'inserimento di questi dati sei messo in contatto con i tuoi amici che ti trovano attraverso questa piattaforma e da lì si crea una comunità. E per i giovani oggi, insomma i giovani, adesso parlo come una vecchia donna berata, insomma sembra veramente, e anche io personalmente penso che in qualche modo può essere considerata una vittoria del networking, perché noi non siamo mai riusciti a ottenere così tante persone messe insieme e in qualche modo pronte a creare una comunità e a dare tutti i loro dati e le loro facoltà di networking per questo progetto. Però in realtà adesso ho anche in qualche modo esagerato, perché da una parte è una vittoria del networking ma anche una grossa sconfitta, dato che se vogliamo vedere come funzionano esattamente questi tipi di piattaforme, in realtà sono gestite da corporation, quindi da una parte sembra che siano aperte e libere, si basano proprio su concetti di openness, sharing, messa in condivisione, però dall'altra parte la cosa più importante per chi gestisce una piattaforma di web 2.0 è il fatto che le persone stesse che portano avanti la piattaforma inseriscano i propri dati personali e mettano in condivisione i propri amici. Quindi all'interno c'è una strategia di metrica e di marketing che avviene attraverso l'incrocio di dati. E è interessante vedere come queste piattaforme sono organizzate, perché utilizzano esattamente quelli che sono stati per noi i concetti fondamentali dell'etica hacker, però applicati a una strategia completamente proprietaria. Cioè loro dicono che le nostre piattaforme sono open perché per loro le persone sono libere di inserire tutti i contenuti che vogliono e organizzare la propria comunità. Sono piattaforme di social networking perché creano network. Creano sharing perché c'è la possibilità di scambiare dei dati. Quindi da una parte possiamo dire effettivamente i termini sono esattamente gli stessi che utilizzavamo noi, ma per una logica completamente diversa. Infatti se uno poi va a guardarsi tutte le varie piattaforme, da Facebook, MySpace, lo stesso anche Google che si è comprato YouTube, quindi vogliamo dire, direi che Google è il big brother dei nostri tempi, sono tutte organizzate nel dare la possibilità agli utenti stessi di generare contenuti, però il problema è che gli utenti non sono pagati per questo, quindi di fatto sono una sorta di piattaforme che organizzano persone che danno spontaneamente lavoro non retribuito e pensano di essere una democrazia, ma non è assolutamente rappresentativa perché di fatto sei dentro la loro scatola e in qualche modo organizzano una mercificazione di quello che è lo scambio, perché se uno prova a creare queste piattaforme o viene espulso o in qualche modo, cioè più di tanto non si può fare. Io personalmente adesso sono interessata anche a studiare quello che sta succedendo in queste piattaforme, a vedere se ci sono operazioni artistiche in qualche modo di senso e anche vedere come di fatto funzionano, perché poi in pochi si leggono quelli che sono i termini e le condizioni nel far parte di queste piattaforme, però la conseguenza è che alla fine loro detengono il copyright in quello che tu posti. E per esempio adesso concludo anche raccontando l'esperienza mia e di Annalisa. Siamo andate a Ars Electronica lo scorso settembre e c'era una conferenza che si chiamava Politics and Collective Action in Modern Open Society. Quindi noi abbiamo detto, ah fantastico, proprio i termini nostri, andiamo a sentire che cosa dicono questi qua. E la cosa era organizzata da Joji Ito, che colui che ha inventato il Creative Commons e fa parte anche del comitato di gestione di Mozilla, e aveva invitato personaggi che comunque si definivano tutti attivisti, come Elizabeth Stark, che fa parte della Free Harvard Free Culture Foundation, e Jonathan McIntosh, tutti americani, che un attivista da Boston, un cinese che si chiama Isaac Mao. E allora abbiamo detto ok, vediamo che tipo di strategie politiche questi ci presentano. In realtà tutti quanti parlavano con un linguaggio che era esattamente quello proprio della comunità hacker, ma presentando completamente altri progetti. Per esempio, per farvi un esempio, Elizabeth Stark ha fatto vedere prima di tutto un ballettino insieme a Richard Stallman, proprio facevano il balletto per inneggiare l'hacker ethic, e poi parlava appunto dell'anti-copyright di tutti questi temi, ma dicendo che in realtà quello che loro puntano maggiormente è il fatto di comunicare attraverso la pop culture, cioè la cultura pop. E noi eravamo un po' allibite perché tutto quello che ci ha fatto vedere erano comunque musiche, video, che almeno al nostro paese non avevano niente a che fare con la nostra idea di attivismo. E lo stesso, per fare un esempio più concreto, Jonathan McIntosh, quello a presentare, cioè ha presentato una sua strategia di culture jamming, per cui venivano creati dei, lui li definisce political remix video, quindi video di mixaggio politico, perché ha fatto una ricerca nel dimostrare che effettivamente molto della cinematografia americana, ci sono effettivamente un sacco di film o pubblicità eccetera in cui si creano delle situazioni di razzismo contro i palestinesi, contro comunque popolazioni che sono effettivamente in una situazione di guerra, proprio a causa anche degli Stati Uniti. E, però lui diceva che innanzitutto ha mostrato tutti i suoi video dentro YouTube, noi quindi ci chiedevamo, ma cioè lui si sta definendo un attivista, ma i video sono tutti su YouTube. E poi la sua strategia era appunto quella di fare una sorta di blob, come noi lo conosciamo, mettendo insieme diversi spezzoni di film, footage, in cui si vedeva come la cinematografia statunitense creava forme di razzismo, eccetera. Però la nostra poi domanda, infatti Annalisa ha fatto un bellissimo intervento che secondo noi non hanno proprio capito, cioè era, ma in che modo tutto questo alla strategia, come loro hanno definito, di attivismo politico e collettivo nella società open, cioè in che modo tu pensi di creare una critica politica, e in tutto questo poi la collettività non era assolutamente considerata, cioè non c'era proprio nessuna immagine, nessun discorso sul fatto di organizziamoci e creiamo una forma di attivismo, però le parole che loro utilizzavano erano esattamente quelle della cultura hacker, ma cioè tutto quello che noi abbiamo visto non aveva a che fare assolutamente con quelli che sono stati i nostri background. E poi utilizzava YouTube, infatti lei ha chiesto perché utilizzi YouTube, non fai una critica anche sul media, visto che sei un attivista politico? E lui ha detto, ma no, io utilizzo YouTube perché in realtà è la piattaforma in questo momento più usata, soprattutto negli Stati Uniti. Quindi, cioè, adesso io vorrei lasciare una domanda aperta, che spero si risolva, o magari no, durante anche questo convegno. Cioè, se uno si parla di social networking, almeno a mio parere è prima di tutto anche non solo creare una forma di critica artistica e politica, ma anche sul proprio sul media che viene utilizzato. E invece sembrerebbe con questa corrente di Web 2.0 l'idea del criticismo del media assolutamente non avviene più, e le stesse persone che in qualche modo negli Stati Uniti vengono dal nostro background perché si riferivano a certi contenuti utilizzano YouTube. Per cui forse a mio parere l'invito che darei magari è innanzitutto vedere se si può in qualche modo ricreare il linguaggio, perché in qualche modo adesso il linguaggio viene utilizzato con le stesse strategie per contenuti completamente diversi, quindi forse è arrivato il momento di reinventarsi il nostro linguaggio politico e attivista, e a questo punto lascio la parola a Antonio Cadonia. E anzi, un invito è anche, magari questo dibattito che noi facciamo può essere il punto di partenza per creare anche fra di noi una ricerca su questi argomenti, anche continuare dopo il camp a analizzare dal punto di vista attivista e politico le dinamiche di networking. Allora, direi che Tatiana ha già toccato i due due punti fondamentali che credo debbano essere al centro della, diciamo, riflessione. Il primo è l'utilizzo, cioè la maniera, meglio ancora, diciamo, i processi attraverso i quali una cultura e un insieme di pratiche non soltanto alternative, ma se non abbiamo paura dei termini, diciamo pure direttamente antagoniste alle logiche commerciali che erano già presenti in internet sino dagli inizi, sino dai suoi, diciamo, inizi, ma che erano un terreno di conflitto e sono state sino dall'inizio un terreno di conflitto culturale, sociale e politico all'interno della comunicazione, diciamo, telematica e delle comunità, usiamo questo termine anche se sarebbe, diciamo, è un termine terribilmente equivoco da un certo punto di vista, ma insomma tanto per capirci. Bene, come da questa situazione si sia passati attraverso questo diciamo, processo che ha descritto abbastanza bene Tatiana nella sua fenomenologia, cioè come utilizzando concetti e termini apparentemente uguali si stia invece costruendo una geografia, un paesaggio dei nuovi utilizzi commerciali di internet esattamente basato apparentemente su quelle idee, ma con una logica diversa. Naturalmente se uno si guarda intorno scopre che su internet non tutto è web 2.0, c'è ancora moltissimo web 1.0, c'è anche una parte di web 0.5, volendo, insomma, ci sono tante cose di web 1.5, cioè è un processo, voglio dire, però non c'è dubbio che i fenomeni più eclatanti negli ultimi 5-6 anni siano quelli di queste piattaforme, alcune delle quali ha già citato, diciamo, Tatiana, quindi YouTube, MySpace, LinkedIn su altri piani, Flickr per le. E dall'altro mettiamo anche una nuova ondata dei mondi virtuali, per esempio Second Life e altre cose di questo tipo, o tutto il mondo dei MORP, cioè di queste. Allora, questo è un problema. E questo però direi che non è la prima volta che noi lo vediamo. La creazione del web 2.0 segue, ricalca esattamente nello specifico delle, diciamo, dinamiche di rete, quella che è stata più generalmente la dinamica sociale delle società occidentali a partire dalla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80. La ristrutturazione che il capitalismo, i capitalismi locali o i capitalismi delle singole multinazionali, visto che è difficile parlare ormai di un sistema nel senso di una regia occulta o collettiva, probabilmente non c'è questa, ma l'ambiente all'interno del quale il capitalismo si è sviluppato ha creato un salto, diciamo, di qualità e un mutamento delle strategie e dei processi di valorizzazione economica e di accumulazione che sono stati negli anni 80 esattamente simili al diciamo, processo che ha adesso descritto diciamo, Tatiana. Diciamo, le forze imprenditoriali con un peso, insomma, diciamo, le multinazionali e tutto il mondo come dire, che stava al seguito e al corteggio delle multinazionali è stato capace non di, come dire, di fronte al ciclo di lotte dei lavoratori dipendenti e degli strati, diciamo, sociali emarginati, quindi dal movimento studentesco al movimento delle donne ai movimenti operai tradizionali che negli anni 60 si erano sviluppati in maniera sicuramente fortemente conflittuale e in molti casi e in molti momenti addirittura direttamente antagoniste al sistema economico globale, erano state in una prima fase combattute sul piano di una contrapposizione frontale, anche da parte delle singole capitali. A partire da un certo punto, i singoli capitali, le varie frazioni del capitalismo mondiale hanno, alcune più, altre meno, dimostrato l'intelligenza di smettere questo confronto, diciamo, questa difesa di un modello di accumulazione e di valorizzazione tradizionale, hanno avuto la capacità di avviare un altro processo di valorizzazione, che noi oggi chiamiamo post-fordista, all'interno del quale venivano assunte esattamente le rivendicazioni o le pratiche di comportamenti di lotta di questi strati operai, proletari, studenteschi, femminili, nel modo, per esempio, l'attuale status, l'attuale statuto largamente precario della forza lavoro nel mondo, in tutto il mondo capitalistico, non è niente altro che l'assunzione e la riscrittura in chiave capitalistica di una serie di lotte contro la rigidità del lavoro e per la flessibilità vista dal punto di vista individuale, personale, per esempio degli strati più giovani dei lavoratori che negli anni 60 e 70 avevano, come si diceva un tempo, disarticolato la struttura di comando capitalistica. Fino a che il capitalismo aveva tentato di reprimere queste lotte rimponendo l'ordine in fabbrica con vecchi metodi, non ci è riuscito. Quando ha deciso di smantellare la mega fabbrica, di apparentemente venire incontro a queste esigenze di non finire, di non fare tutta la vita lo stesso lavoro, eccetera, ma obiettivamente facendole, realizzandole nel modo che conveniva a loro, questa è stata una delle cose. Il post-fordismo non è stato nient'altro che questo, è stata la capacità del capitale di guardare, di confrontarsi con le rivendicazioni di una forza sociale antagonista, comprenderle dal suo punto di vista, realizzarle nel modo che fosse utile per gli interessi loro e non per gli interessi nostri. Tutto questo è stato possibile farlo, nessuno demonizza l'informatica, è ovvio, però è stato possibile farlo soltanto perché ad un certo punto è comparsa sulla scena un insieme di nuove tecnologie basate sul trattamento dei dati, eccetera, che sono le tecnologie informatiche che hanno consentito la produzione flessibile, il just in time, tutte le cose che stanno nelle classiche analisi del post-fordismo su cui non vi tedio. Questa cosa si sta ripetendo esattamente con il web 2, con il web 2.0. Il web 2.0 è la risposta da un punto di vista storico. Il web 2.0 nasce con la crisi delle dot-com. Le dot-com sono la prima fase, il primo tentativo di quella che si potrebbe chiamare una crisi di alleanza, perché c'è stata di fatto negli anni 90 una alleanza tra le nuove forze di lavoro, i lavoratori cognitivi, i lavoratori immateriali, i lavoratori della conoscenza e alcuni settori capitalisti che sfruttavano queste nuove cose, quindi il capitalismo della conoscenza. Per una breve fase, per meno di 10 anni, c'è stata una obiettiva alleanza, una convergenza, che è quella che ha dato luogo al grande fenomeno delle dot-com. Le dot-com però, sia economicamente che culturalmente e socialmente, avevano i piedi deboli, non erano neanche un grande gigante, ma i piedi erano sicuramente d'argilla, sono crollate, è stata la bolla, speculativa, è stata la prima grande crisi. Oggi, ai confronti della crisi che stiamo vivendo adesso, del capitalismo globale, sappiamo che è una crisi profonda perché ha le sue radici esattamente nei meccanismi più sensibili e più innovativi per esempio di gestione del capitale finanziario. Allora la crisi del 99-2000 ci può trovare piccola, ma fu grossa allora, perché lo scoppio della bolla della internet economy. Questa bolla che cosa comportò? Comportò la fine di quella alleanza, di quella convergenza temporanea che c'era stata, la ripresa in mano delle poche realtà industriali, industriali, nel senso dell'industria dell'informazione e della comunicazione, che erano emerse, Google tra le prime, e non a caso cioè Google è la questione, perché Google è quella che prima di altri ha utilizzato questo modello dell'utente che spontaneamente, perché gliene viene un qualche utile, ti regala di fatto i suoi dati, non solo i suoi dati, ma ti regala una serie di abitudini di ricerca, di acquisto, quindi consente a chi si dota dei software appropriati, l'intelligenza di Google è stata questa, di dotarsi non solo del motore di ricerca più duttile, misterioso, sempre tutti lo spider famosissimo di Google, basato su algoritmi semisegreti, eccetera, come so, ma soprattutto anche della capacità di sfruttare l'archiviazione dei percorsi di ricerca fatti dalla... E quindi per riuscire a riprovare, e alcuni ci stanno riuscendo, a fare ripartire un modello economico nuovo basato non più sulla vendita di servizi come pareva essere nell'epoca delle .com, ma come un potenziamento della pubblicità su internet, quindi lasciando apparentemente la gratuità di un sistema di fondo, ma di fatto facendotelo pagare come? Facendotelo pagare con quello che diceva prima Tatiana, cioè e che vedete Bert Loving nel suo ultimo libro Zero Comments ha denunciato con grande forza, cioè il lavoro gratuito che gli utenti fanno per tutte queste piattaforme. Quindi questo mi pare il succo della cosa. E quindi dietro ci sono due, la seconda questione, quindi la prima questa accumulazione, valorizzazione, lavoro. La seconda questione è una questione linguistica. Mai come in questa fase è il linguaggio che emerge come il punto fondamentale, come l'incrocio nel quale si creano queste possibilità o si gestiscono gestisce questo insieme di possibilità. E vorrei chiudere ricordando l'installazione che hanno messo fuori all'inizio gli amici di L'Aliena Invisible, in cui si fa riferimento a Geoff Cox. Geoff Cox è un inglese che ha sviluppato una delle più incisive analisi, anche uno dei tentativi di deturnare, di spostare l'attenzione con un gioco di parole, dal network al notwork. Network vuol dire oggi per queste realtà imprenditoriali che sono appunto Facebook, tutte queste cose di social network, vuol dire work, vuol dire free work, lavoro gratuito. Allora il network va trasformato, propone Geoff Cox, in network, cioè attraverso una serie che adesso non siamo qui a dire. Allora questo mi pare il quadro. Poi che tutti noi si usi o non si usi Facebook o YouTube, nessuno dice che non si devono usare. Ci siamo pure noi, non è figuriamoci, ma ci siamo dentro, noi ci illudiamo forse, ma ci siamo con l'intenzione di comprendere i meccanismi dall'interno e quindi cercare poi di fare altre cose. Sarà bene. Almeno diciamo così. Poi in realtà ci giochiamo pure noi, questo è ovvio. Però e l'altra idea che mi pare abbia circolato in lista nei mesi scorsi e che andrebbe in qualche maniera ripresa è se non c'è la possibilità di fare delle sperimentazioni direttamente noi di social networking a modo nostro, cioè riportando in primo piano i comportamenti e i contenuti e soprattutto reintroducendo una dimensione, chiamiamola come diavolo vogliamo, conflittuale io direi di base, cioè reintrodurre il conflitto nella cosa. Notate, e chiudo su questo, che il conflitto c'è ancora anche nel social network, è mascherato, ma quando Facebook ti dice cerca i tuoi amici, no? E ci riporta alla classica concezione schmittiana della politica che si baserebbe secondo Schmitt sulla distinzione netta e chiara tra amico e nemico, che poi questa distinzione sia negoziabile, transeunte, eccetera, va bene, però questa è la cosa, quindi la politica nel senso c'è già dentro il sottotitolo, si tratterebbe solo da parte nostra se abbiamo la capacità con una operazione intelligente di tirarla fuori, esplicitarla, rivoltarla contro come un calzino, esattamente come loro signori hanno rivoltato, e già si sono dimostrati capaci di farlo molte volte, le nostre diciamo, richieste, le nostre aspirazioni, i nostri obiettivi, le nostre pratiche conflittuali e a volte antagoniste, così dovremmo, diciamo, cercare in qualche modo, e lo spazio c'è perché? Perché il linguaggio non è trasparente, perché il linguaggio è ambiguo, perché all'interno del linguaggio si può giocare, si possono fare, diceva Wittgenstein, i giochi, diciamo, linguistici e far vivere delle forme di vita linguistiche, e quindi le forme di vita diverse dovrebbero poter essere sperimentazioni e riprese delle nostre tematiche, non perché ci siamo affezionati, ma perché obiettivamente sono quelle che mettono in gioco, mettono in luce, che esplicitano il carattere conflittuale, che dicono, se ce la facciamo, dovremmo essere in grado di dire, il re è nudo, insomma. Ok, quindi io passerei il microfono a Annalisa, che ci... avete già detto tutto voi, per cui cercherò di dire quello che... di tagliare quello che avete già detto e di... Allora, mi chiamo Annalisa, io non sono iscritta né a Facebook né a tante altre cose, probabilmente sono una vecchia zia belarda, però per adesso riesco a sopravvivere. La mia etica del fai da te non è nata tanto come programmatrice, io non sono una programmatrice, ma con Telestreet, per cui per me imparare a fare il fai da te è stato un po' cablare spazi pubblici in giro per diverse città con dei cavi, vecchi cavi analogici, poi riportati su dei mixer mi considero all'interno di un'etica, cioè considero l'idea di avere una certa etica, però non l'ho sviluppata col codice necessariamente. Perché dico questo? Perché Telestreet è stata un'esperienza che è entrata, cioè in qualche modo ha previsto quello che poi è successo con YouTube, eccetera. E quindi venendo da questa esperienza, io a un certo punto non mi sono più potuta non fare delle domande, che erano anche molto dolorose. Siamo arrivati a questo punto, il risultato è stato questo, è stato YouTube, cosa c'è che non funziona in questo? E quindi ho cominciato a farmi una serie di domande che poi ho cercato di dare una forma all'interno di un percorso di ricerca, di dottorato. Sì, non so chi lì sta, se ne è parlato, sì, vorrei tediare troppo. Telestreet sono le microtelevisioni di quartiere che utilizzando tecnologie analogiche, anche molto lo-fi, come appunto un'antenna, un trasmettitore che è stato invertito, cioè un ricevitore invertito in un trasmettitore, e poi usando chiaramente computer, playlist, creazione, produzione video, chiaramente digitale, ha da una parte fatto dialogare diciamo con una tradizione anni 80 di tecnologie video, e dall'altra ha cercato di portare anche, di funzionare un po' come cerniera sui territori, sui micro territori, di una cultura digitale che forse in Italia si è sentita anche meno che non nel resto d'Europa, e quindi avvicinare anche con un'espressione forse un po' inflazionata, comunque la gente della strada alla produzione di immaginario. E quindi io sono stata attiva in Orfeo TV a Bologna e in realtà sono ancora attiva, perché poi adesso l'attività di Orfeo TV continua con il Media Center, che è un'ulteriore, diciamo, televisione di strada che coinvolge giovani giornalisti, giovani creativi. Quando ho cominciato a farmi queste domande, la prima era proprio perché fare una ricerca sulle comunità, sul networking negli anni 2000, visto che quanto noi abbiamo detto è stato ripreso e detto con ben altri mezzi industriali di produzione di immaginario a livello industriale, da Google piuttosto che da Fox, eccetera. In qualche modo io sto cercando di ricostruire una storia, la storia di un'espropriazione, che è un'espropriazione appunto semantica, prima di tutto. Mi sono chiesta, ma quando parliamo di comunità in rete, stiamo parlando tutti della stessa cosa? Non parlo solo fra noi che siamo qui, ma se voi fate una ricerca in rete di comunità online, troverete una serie di realtà totalmente eterogenee che vanno dalle comunità di pratica all'interno delle aziende. Come saprete, una dei fronti su cui le aziende investono di più sono quelle della comunicazione interna, e quindi le comunità di pratica online diventano un modo per per fare in modo che la conoscenza informale fra i dipendenti, quella che di solito si passa alla macchinetta del caffè, possa essere trasmessa anche da dipendenti che lavorano su piani diversi della stessa grande organizzazione. E Wenger, per esempio, studia questo tipo di comunità di pratica e non hanno problemi a chiamarla comunità online. Oltre che poi appunto tutto il discorso del web 2.0. Allora, se fino alla fine degli anni 90 era relativamente semplice fare una lista delle esperienze che hanno segnato la nascita e lo sviluppo della cultura comunitaria in rete, oggi non lo è più. Allora, molto velocemente, perché poi queste sono cose che probabilmente sapete meglio di me, però quali sono alcuni, possiamo dire, meme, alcune caratteristiche che hanno contribuito a disegnare la cultura comunitaria in rete? Beh, arrivano da molto lontano. La prima è stata quella della quella visione cibernetica che è nata durante la Guerra Fredda, quindi all'interno dei think tank universitari e accademici. Qui hanno introdotto l'idea della decentralizzazione, le metafore biologiche, spesso hanno sconfinato nelle scienze dure, e il sistema basato sulla reputazione fra pari, viene da molto lontano. Vabbè, poi le BBS, i Secret Network delle origini, tipo il Cleveland Free Network, hanno portato a questa visione, un'ulteriore visione dell'information technology come uno strumento da rendere accessibile a tutti, e quindi fanno uscire questa cultura tecnologica dell'università, ed è un ruolo di cerniera che tuttora si trova nei protocolli di rete. Poi arriva Rheingold, che dicono essere il primo che parla di comunità in rete. Sappiamo che non è vero, però di fatto un libro che si chiama Comunità Virtuale. Esatto, esatto. Però a livello, anche qua i significati sono quelli che vengono condivisi, e quindi quando si parla di online communities ci si riferisce sempre a Rheingold. Rheingold cosa ha fatto? C'è un bellissimo libro di Fred Turner che si chiama From Counter Culture to Cyber Culture, che sostanzialmente dice i cyberutopisti alla Wired, e Rheingold è uno di loro, hanno semplicemente tradotto l'eredità di una controcultura in un cyber immaginario, e si riferisce soprattutto alla controcultura delle comuni, quindi degli anni 60. Perché? Perché questa controcultura comunque aveva un accento sull'individualismo, in America, a differenza che in Europa, non aveva una visione di classe, ma comunque vedeva l'individuo come fulcro dell'attività, non strettamente politica, perché poi appunto i comunalisti si divisero dal Free Speech Movement di Berkeley, si divisero da quella che poi diventa la New Left, ed era imbevuto di visione New Age, quelle che poi negli anni 80 avevano chiamato New Age, quindi anche qua metafore biologiche, metafore energetiche. E anche queste sono arrivate a far parte di una cultura comunitaria di cui molti di noi hanno fatto e fanno parte. Non sto ancora facendo una critica, sto cercando di prendere dei meme appunto culturali che si sono sommati negli anni. Poi abbiamo la critica degli eredi degli anni 90, di cui ha già parlato Tatiana, che è stato, io lo vedo come il momento in cui le sottoculture, nel momento in cui il web diventava di massa, hanno comunque cercato, e ci sono riusciti a mio avviso, a mantenere uno sguardo lucido sul medium. Alla fine degli anni 90, da non dimenticare, il movimento cosiddetto New Global, che come dice Didi Hallek, che è un'attivista americana, ha visto da una parte gli attivisti per la giustizia sociale incontrarsi con i media artisti, e c'è anche un incontro fra nord e sud del mondo in questo, insomma, poi non a caso Porto Alegre è stato il luogo in cui il movimento si è riunito. Allora, tutte queste esperienze hanno portato degli elementi che probabilmente ognuno di noi può ritrovare nella propria pratica quotidiana. Invece, dagli anni 2000, diversi ambiti di attività hanno espropriato appunto questa nozione di comunità in rete. E per capire come questa espropriazione sia stata possibile, è necessario fare un passo indietro e vedere appunto quello che è successo all'inizio degli anni 2000, quando la cybercultura, uso questo termine ombrello per definire insomma, tutti gli aspetti di cui ho accennato fino adesso, che aveva nutrito l'utopia comunitaria di un'infrastruttura dal basso in cui metodi organizzativi, contenuti, approcci culturali si integrassero in vicenda, senza cuciture, diciamo, è stata messa in discussione da tre eventi: uno, la guerra al terrore; due, il crollo delle dot-com; e terzo, un po' più avanti, il web 2.0. Quindi alcuni miti che si basavano sulla visione dell'information technology come una panacea, come una seconda rivoluzione industriale che portasse con sé l'emancipazione per la cittadinanza, ecco, alcuni di questi miti hanno affrontato in questi ultimi 8 anni, delle controevidenze. Per questo all'inizio dicevo che è doloroso, perché molti di noi di questi miti hanno partecipato e li hanno creati, cioè li hanno riprodotti. Per quanto riguarda il bars delle dot-com, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva prima Antonio, cioè c'è stata un'alleanza sicuramente fra imprenditori di internet e creativi della rete negli anni 90, e il crollo finanziario ha dimostrato non solo l'improbabilità delle basi finanziarie delle dot-com, quello era un periodo in cui bastava avere una qualsiasi idea e si veniva finanziati, ma ha dimostrato come il periodo di proliferazione in realtà era finito, perché appunto dalle ceneri di questa ecatombe sono nati grossi gruppi come Google. Qual è la strategia di Google? Google compra, non è solo Google chiaramente, però delle start-up prima che ti possano diventare concorrenti. Questo vuol dire che di fatto compra qualcosa su cui non ha investito, e questo è l'opposto dell'ideologia che stava dietro la proliferazione dei dot-com. Diciamo, uno degli effetti laterali di questo è stato il fatto che appunto i creativi della rete non hanno più potuto trovare in questa coalizione anche dei modelli economici di sostenibilità. Il secondo punto, per convenienza lo si fa risalire l'11 settembre, ma io preferisco parlare di guerra del terrore, riguarda uno dei pilastri della cybercultura. Non so per chi si ricorda la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio di Barlow, internet era visto come un dominio completamente separato da quello reale. E questa è un'idea che ci siamo portati dietro, per molti anni. In realtà la geografia è importante, e come è importante. Nel 99 Lessig parlava delle tecnologie del commercio morbido sostenuto dalla rule of law. Una ricerca che è uscita nel 2006 di due ricercatori di Stanford, che si chiama Goldsmith e Wu, dimostra come i governi nazionali non potrebbero fare nulla senza il supporto di Cisco, di Google, ma non soltanto nei paesi così... Cina, Birmania, eccetera, ma chiaramente in qualsiasi luogo della Terra. E quindi loro parlano di balcanizzazione della rete come risultato di un lavoro in team tra governi e global internet companies. E a questo punto, da questo punto di vista, secondo me è anche molto interessante parlare di di privatizzazione delle funzioni regolatorie ed è qualcosa di cui parla Rodotà per quanto riguarda internet, ma c'è un'altra studiosa che si occupa di mercati finanziari, che è Saskia Sassen, e parla dello stesso movimento che sta accadendo nei mercati finanziari, ovvero quando noi uno dei poteri più grossi della società dell'informazione è quello di stabilire gli standard, di stabilire le regole. Chi li stabilisce questi standard? Internet è nato rendendo il più possibile pubblico questo processo, quindi con il W3C, eccetera. D'altro canto, però, quello che stiamo vivendo adesso è una privatizzazione delle funzioni regolatorie in rete. Quindi c'è il discorso del net neutrality, per esempio, il fatto che i provider possano decidere chi ha l'accesso, chi ha la prerogativa, quali pacchetti viaggiano più velocemente in rete, sostanzialmente. E queste sono regole che non fanno i governi, nonostante ci sia un dibattito in America, ma fanno i gruppi privati. La stessa cosa, appunto, ne parla Sassen per quanto riguarda i mercati finanziari. Le regole del debito dei paesi poveri, per esempio, non le stabiliscono tanto i vari organismi internazionali, il WTO, eccetera, ma le stabiliscono quelle agenzie di rating che proprio in questi giorni sono crollate. Quelle agenzie di rating che davano 2A, 3A, eccetera. Per cui anche qua c'è un discorso, chi controlla i controllori? Esatto. Naturalmente tutto quello che sto dicendo non è aggiornato a quello che è successo l'ultima settimana. Questo è un video legato con una casa. Quindi non è vero che internet non è controllabile e non è vero che internet è delocalizzata, assolutamente. Stiamo facendo una ricerca su Google dall'Italia, ti vengono fuori i risultati prevalentemente in italiano. Terzo mito, mi sembra la Cina. C'hai il 50% di meno. E il terzo mito che è stato messo in discussione negli ultimi anni è quello che secondo me è più doloroso e più difficile da digerire per chi ha creduto appunto nella condivisione della rete. E perché vedere cadere questo mito significa dover ricostruire il proprio sistema di valori. Allora io sono molto radicale da questo punto di vista, ovvero la creazione, il mito che la creazione di commons digitali da sola permetta a individui e comunità svantaggiate di ottenere più potere. Allora, anche questo modello poi è stato ereditato da un'utopia cibernetica, è abbastanza determinista ed è riassunto nel termine inglese empowerment, cioè è come se il potere fosse lì e passasse attraverso delle tecnologie che sono solo dei conduttori e chiunque può accedere alla rete automaticamente acquisisce potere. Poi c'è il discorso che fa Loving, che è forse il più importante, ovvero c'è un'economia basata sulla decentralizzazione della produzione, ma non c'è un modello economico basato sulla decentralizzazione dei revenue, delle risorse. E questo è interessante perché quando nel 2004 O'Reilly coniò il termine web 2.0, lui stava esplicitamente cercando un metodo, un sistema economico più adatto al mezzo. Ovvero tra il 2004 e il 2005 la rete si stava reincarnando nel web orientato al user generated content, così come la net economy si stava riprendendo dal burst. Cosa aveva dimostrato il crollo del dot-com? Che internet è un mezzo sostanzialmente aperto e che un modello economico che chiedeva di pagare per ottenere l'informazione non poteva reggersi. E quindi O'Reilly cosa ha detto? Va bene, se il medium è aperto, noi non possiamo andare contro il mezzo, e forse anche in questa maniera un po' deterministica. Comunque noi cerchiamo un sistema in cui l'apertura ci permetta di ottenere valore. E questo era esplicito. Il web 2.0 come sistema economico è esplicito, poi tutto il resto è stato costruito dopo, ma... Esatto. E come li, allora, l'altro giorno leggevo un articolo dove dicevano che probabilmente questo sistema economico ancora non è riuscito a coprire i costi, gli investimenti iniziali. Questo insomma, può essere, però è anche vero che se, come dire, il capitale in qualche modo si deve riprodurre e sicuramente all'inizio fa affidamento sul periodo di sperimentazione. Quindi se il web 2.0 non ha ancora fruito capitali, tanto da rientrare negli investimenti, non è escluso che lo possa fare nei, nei prossimi anni, attraverso due metodi. Uno è la solita pubblicità e l'uno è l'altro, il data mining. In più risparmia anche molto perché appunto gli autori sono a costo zero e siamo tutti noi o comunque chi all'ideologia del free insomma, crede, ha creduto. Ancora però al culto dell'amatore non corrisponde una redistribuzione delle risorse finanziarie. Non so se vi ricordate, quando nacque YouTube si parlò di un modello economico per cui YouTube avrebbe redistribuito i proventi dei video più visti. Non se ne è più sentito parlare. Però io mi ricordo che se ne parlava, era uno dei cavalli di battaglia di YouTube. E poi un altro punto, sempre di critica economica, riguarda la lotteria della disintermediazione, che è stata elaborata da Andersen, il teorico della coda lunga, e da altri commentatori di internet, come Nicolas Carr, che insomma, è un tipo che è abbastanza lucido. E dice, sostanzialmente si dice che nella catena di produzione di valore nel web 2.0 chi ci guadagna, a parte diciamo chi consuma l'informazione, ma poi bisogna anche vedere che tipo di informazione è, perché sapere che non so, che il mio vicino di casa adora le fragole, magari, ma non mi frega neanche più di tanto. Comunque chi in questa catena riesce a produrre valore non sono i produttori, ma sono gli aggregatori. Quelli che li eseguono. Esatto, cioè gli intermediari. Sono gli unici che riescono a ottenere fondi di investimenti, venture capital, e quindi produrre valore. Anche qua un paragone con l'economia reale, insomma, viene quasi automatico, no? Quando si parla del costo dell'euro, quando si parla dell'economia, delle cose, cioè non è il produttore agricolo che ottiene il valore, che viene pagato, remunerato per il suo lavoro, quanto l'intermediario. E la stessa cosa succede con il web 2.0, sono gli intermediari quelli che hanno qualche speranza, se ancora non li hanno fatti, di fare i soldi. Allora, queste considerazioni non segnalano solo la crisi della distinzione del 1900, della distinzione moderna fra lavoro produttivo, fra tempo della vita produttivo e tempo della vita improduttivo, ma gettano anche luce sul ruolo dei lavoratori cognitivi, del cognitariato, e che sono sia amatori che professionali, che hanno investito e stanno investendo le proprie risorse sul modello economico basato sullo sfruttamento del lavoro immateriale. E mostra, e per questo dicevo è doloroso, i limiti di una cultura libertaria basata sul modello della free beer. Questo modello era supposto liberare gli individui dal licensing regime, dal copyright, no? Il copyright, le industrie basate sul copyright sono state per lungo periodo il nostro nemico. Purtroppo quello che ci troviamo davanti non è forse molto meglio. Allora, questi fili rossi che ho segnato velocemente mi portano a parlare di espropriazione semantica. Cioè, se la cybercultura che ho delineato molto velocemente fin qui ha mostrato i propri limiti, altri domini di attività hanno espropriato appunto il termine di comunità digitale. Social networking sites, social software, comunità di pratiche, sono tutte etichette che hanno un po' riabilitato un prodotto molto anni 90, che era appunto la comunità online, nel momento in cui si cerca di rendere produttive le transazioni informali che avvengono in rete. Allora, io ho parlato di una esplosione della Gemeinschaft oltre i confini della sociologia, dei media studies, verso il business, il management e l'economia. Cioè la Gemeinschaft, la comunità come opposta alla società, no? Questa è una delle categorie che fondano la sociologia. E ti dicono la società è quella, è la società moderna, la Gemeinschaft invece è il luogo fatto dei rapporti comunitari. pre-industriali del paese, dove tutti si conoscono. Chiaramente anche queste sono delle utopie, forse un po' nostalgiche. Allora, quello che io propongo quando si parla di social networking, social software, eccetera, è abbastanza radicale. Ovvero, parafrasando la Thatcher, dire che non esiste niente come una comunità. E guarda, quando la Thatcher disse non c'è nulla come una società. Esatto. D'altronde, la debolezza del concetto di comunità è manifesto, perché nel momento in cui Internet si sta rivelando più burocratizzato, orientato al profitto che mai, i legami comunitari sono sempre più invocati. Quindi questo è chiaramente paradossale. Però la parafrasi della Thatcher non è solo una provocazione, ma invita a riconoscere il significato stesso del termine sociale e società. E qui ci porto un attimo una nota teorica, che c'è la Tour, che è questo filosofo francese, che invita a non considerare la società come una sostanza, ma a considerarla come un movimento di un elemento da un'aggregazione a un'altra. Allora, e finisco con questo. Lui fa l'esempio del supermercato. Cioè lui dice, la società non è uno dei... non è come i biscotti che si trovano su uno scaffale, quindi non è una sostanza, un tipo di rapporti, e quindi la stessa cosa si può dire con la comunità, non sono un tipo di rapporti diverso dagli altri, ma sono tutti i passaggi che si hanno quando il prodotto viene tolto dalle scatole, etichettato, messo sugli scaffali, viene decisa la disposizione sugli scaffali. Questa è la società, cioè qualcosa che non esiste a sé stante, ma che viene... ricostruito nel momento in atto, in situazione, nel momento stesso in cui vengono prodotti degli account, delle rappresentazioni di ciò, di questi gruppi sociali. Allora faccio un esempio. A questo incontro, ad Ars Electronica, un esempio di questa visione di sociale. Ad Ars Electronica le main symposia erano state organizzate da Joe Ito. Appunto, è uno di questi definiti communist liberalist, perché da una parte esaltano la libertà individuale e criticano, e dall'altra parte sì, criticando lo Stato, ma non mettono in discussione il discorso del capitale, la riproduzione del capitale. Allora, per me è stato molto interessante vedere che Joe Ito ha chiamato ad aprire i lavori Benkler. Questo lo vedo come un esempio di analisi sociologica, in questo termine che ho detto. Cioè Benkler, chi è? È un elemento che a vederlo sembra uscito davvero da una comune di San José. Barba lunga, capelli lunghi, strazzato, strazzatissimo. Poi scopri che è un giurista che lavora ad Harvard e che negli ultimi anni si è occupato di sociologia economica. E lui è uno dei teorici di questo nuovo liberismo, per cui da una parte appunto è liberista, nel senso che critica l'intervento statale, io sarei molto curiosa di sapere cosa dice oggi, e dall'altra parte vede nella condivisione delle risorse in rete e nell'abolizione della proprietà il futuro del capitalismo. È molto interessante sapere che il capitalismo questa scuola capitalistica vuole abolire il concetto di proprietà privata perché lo trova una zavorra troppo pesante per il proprio sviluppo. Allora, sapere che all'interno di Ars Electronica Joe Ito ha fatto certe cose, tra cui appunto viene definito un attivista, ha lavorato con Mozilla, è il chief di Technorati, ha invitato ad aprire i lavori Benkler, beh, questa è un'analisi sociologica, nel senso che dicevo prima, infatti poi quello che si è visto è stato una rifondazione, un'espropriazione di tutto il linguaggio sviluppato dagli anni 70 in poi, fino agli anni 90, dalla cultura hacker, a favore di un establishment, appunto di cui diciamo un po' di Google è il nome tutelare. Poi tra l'altro il tema di Ars Electronica era New Cultural Economy, cioè la nuova economia culturale, quindi questo ti dice tu. Io direi adesso passiamo la parola a Gaia Novati, e dopo aprire il dibattito fra di noi. e Gaia ci presenta un caso di studio sul PON 2.0 e ora lei ci spiegherà perché. Sì, scusate ma non... In realtà volevo fare una piccola carrellata quanto più veloce possibile su cosa succede nel mondo della pornografia online oggi. E pornografia online oggi è praticamente 2.0. Faccio due premesse. Faccio due premesse. La prima è che quando per affrontare il tema, l'ho già detto anche ieri, affrontare il tema della pornografia è quantomeno complesso, nel senso che pornografia è un mondo assolutamente vasto e che comprende una serie di media e di modalità di essere e di fare che sono... Scusa. Appunto, pornografia è una parlare di pornografia è un tema assolutamente vasto che comprende moltissime situazioni, moltissime dinamiche e moltissimi sistemi di sociali e comunità. La premessa che voglio fare io è che io non ho intenzione di parlare di pornografia, ma ho intenzione di parlare di pornografie. Ho intenzione di fare una distinzione di fondo che per me è basilare, che esiste una pornografia mainstream o che esistono pornografie mainstream e esiste la possibilità, e sottolineo il concetto di possibilità, di pensare o di elaborare una pornografia non mainstream. Possibilità, dico perché secondo me ancora ci sono le traiettorie che possono portare a un discorso non mainstream di pornografia, sono tutte quante aperte e sono tutte quante in divenire, soprattutto considerando il fatto che fare pornografia in rete è assolutamente semplice. La pornografia è uno dei più grandi mercati, non solo della rete, ma è uno dei più grandi mercati in generale ed è, lo metto anche questo come premessa, uno dei punti, uno degli input maggiori per lo sviluppo delle tecnologie. Se una tecnologia si sviluppa in una certa maniera, è da un certo punto di vista quasi sintomatico il fatto che si produce per favorire una certa forma di evoluzione di un consumo di pornografia. E non è banale dire che l'evoluzione del web, in web 2.0, probabilmente avviene anche grazie all'evoluzione dei nuovi consumi di pornografia in rete. Noi adesso usiamo Facebook, bene o male tutti quanti a parte Annalisa, ma l'idea di condividere o comunque di vivere un'esperienza online in rete è stata preceduta ampiamente da chi faceva uso prima delle webcam, prima di altre comunità di uso e di consumo di pornografia in rete. Quindi il modo in cui è stata sviluppata e come si sviluppa tutt'oggi ha molto a che fare con la rete, ha molto a che fare con l'uso di pornografia e quindi secondo me è interessante studiare o comunque guardare quelli che sono i cambiamenti in atto oggi in questo mondo. Vorrei inoltre, appunto, come dicevo, prendere a prestito alcuni temi che sono stati sviluppati nelle conversazioni precedenti. Il primo è riappropriazione. Appunto per ragionare su quello che sono le possibilità di costruire una pornografia o di pensare una pornografia non mainstream. Il concetto di riappropriazione, cioè noi vediamo che oggi anche nel mondo della pornografia sono stati utilizzati concetti che noi consideravamo critici. Noi, inteso quelli che vogliono pensare a una pornografia diversa. È veramente, ho poco tempo e vorrei concentrare la cosa quanto più velocemente possibile. Mi permettete di farvi vedere un video che è uscito online una settimana fa? E che è un ottimo punto di partenza. Stai usando YouTube. Lo so. Io sono convinta che sì, io sono convinta che questo video non ha urtato la sensibilità di nessuno. Dal mio punto di vista, di persona che ha un percorso critico, sono stata anche femminista, lo dico con orgoglio chiaramente, vi posso assicurare che io non trovo in questo film atti offensivi, non trovo non considerazione, non riesco a fare una critica, cioè non riesco a considerarlo un prodotto brutto. Non lo riesco a considerare un prodotto brutto perché è ironico, gioca con una sessualità piacevole, colorata, bella, è in qualche modo pulito, se mi fate passare il termine, considera tutte le possibili varianti del fare sesso, perché posso decidere di fare sesso con una donna, con un uomo messo in una posizione, con una donna messa in un'altra posizione. Tiene conto di tutte quelle che potrebbero essere le mie critiche, anche se voglio essere una persona particolarmente critica, non riesco a essere critica. È della Diesel, gira in YouTube e per quanto ne sappiamo tutti quanti, la Diesel non è un'industria che noi riteniamo politically correct, o comunque. Ecco, questo è secondo me un ottimo esempio su cosa significa oggi ragionare sul porno in rete. Il porno, anche il porno, da molto tempo ha già riflettuto da tempo su cosa significa riappropriarsi di concetti, di culture, li ha riutilizzati, li ha rimessi in circolazione, li vende bene perché li vende bene. La Diesel è una marca di jeans e sicuramente venderà moltissimo con questa pubblicità, anche perché la pornografia, come sempre, tira, abbiamo detto, è uno dei più grossi mercati. E allora cosa significa fare pornografia diversa da una pornografia mainstream? Cioè, qual è il concetto sul quale noi dobbiamo... quali sono i concetti sui quali noi dobbiamo riflettere per poter pensare che esista una pornografia altra? Un altro sito, tanto per ritornare invece sul concetto di sviluppo della tecnologia, è un sito porno molto conosciuto, ha un buonissimo bacino di utenza, è un sito normale che si dota di una tecnologia assolutamente avanzata, è stato uno dei primi siti che hanno utilizzato le tecnologie che poi state sviluppate per tutto il web 2.0. La maggior parte delle persone che lavorano a questo sito sono persone che fanno parte dell'ambiente o che facevano parte dell'ambiente hackers, cioè sono persone che hanno utilizzato le loro competenze provenienti da un certo background, da una certa cultura, e le hanno sviluppate per creare un sito pornografico con dei contenuti assolutamente mainstream, che danno e che di fatto è stata una delle basi su cui si sono sviluppati moltissimi altri siti web. Videobox linka alla maggior parte dei siti americani più interessanti da un punto di vista, per chi volesse prendere nota chiaramente, ve lo faccio vedere, più interessanti dal punto di vista della qualità e della usabilità, altro grande tema importante dell'industria porno. Ma è interessante notare chi appunto ha sviluppato Videobox. Videobox sono gente che ha sviluppato Videobox, sono le stesse persone che hanno messo in piedi un evento come Ars Electronica. Ars Electronica, per chi non lo sapesse, è un evento che si svolge da ormai 6-7 anni presso Los Angeles. Ars Electronica. Ed è un ragionamento su internet, cyber and sexuality. Chi organizza, assolutamente interessante se vi capita di andare a vedere in rete quelli che sono gli discorsi che vengono fatti. E appunto le stesse persone che hanno messo in piedi un progetto come potrebbe essere Ars Electronica sono gli stessi che hanno sviluppato Videobox. Lo spiego volentieri e ve lo faccio anche vedere. Scusate, ma io non sono più abituata a questo. Scusate. Se riesco a farvelo vedere. Ah, no, poi. Non riesco, è troppo complicato, ci impiego troppo tempo. Ars Electronica è chiaramente si chiama come l'arte di amare, chiaramente ha un chiaro riferimento legato a quello, ed è appunto un festival che lascia stare, non importa. Ma lì ce l'avevi in cima, guarda. Com'è? Lì ce l'hai. Se ci clicchi sopra lì. No, ma non è quello giù. Ah, questo. Bravo. Questo è uno dei prodotti che vengono fatti, uno dei prodotti artistici che è stato fatto nel 2007. E tendenzialmente si cerca di giocare su quelli che sono i prodotti robotici di nuova invenzione. Questo è un vibratore elettronico, ci sono state fatte delle bellissime dette elettroniche che si muovono facendo dei colori molto interessanti. Il mondo di Ars Electronica e tutto quanto si basa su concetti come Creative Commons, sharing, eccetera, eccetera, e che ribadisco è interessante dal punto di vista di una critica pornografica, è che potete vedere da questo sito. Cioè loro utilizzano lo stesso nome di Ars Electronica. Ho scritto con la Evo. È un'altra cosa. Poi ci sono due carte. Infatti, è molto alternativo. La pronuncia però è uguale. Voilà, questo è il sito del 2007. Ars Electronica. Tornando a noi. Esistono appunto tutti quanti voi conoscete, immagino, Suicide Girls. Suicide Girls è stato uno dei primi siti uno dei siti che ha pensato al concetto di empowerment, cioè come sviluppare, come utilizzare le tecnologie messe a disposizione dalla rete per potersi costruire il proprio, farsi il proprio sito, do it yourself, tutte queste parole che rientrano nel nostro immaginario continuamente. E Suicide Girls è stata una company, anzi ancora più interessante, perché è un sito che metteva insieme persone fisiche che insieme decidevano che tipologie di immagini di se stesse dare, conoscevano i fotografi, erano, si mettevano a disposizione per libera scelta, quindi assolutamente non è possibile fare una critica a Suicide Girls. Eppure due anni fa esce Boycott Suicide Girls, un MySpace che, che critica tremendamente le situazioni che sono, che si svolgono all'interno di Suicide Girls, cosa succede all'interno di questo, di, del mondo di Suicide Girls, e allora vieni a scoprire che anche nel mondo di Suicide Girls c'è chi crea una, chi manipola quell'altro. Cioè, questi in realtà sono i gossip di Suicide Girls, perché come in ogni qualsiasi comunità si sviluppano le tendenze a creare controllo e persone che questo controllo non lo vogliono. Ecco che allora in un progetto come Suicide Girls di condivisione, di sharing, di empowerment, di do it yourself, eccetera, eccetera, produce comunque deviazioni, se vogliamo chiamarle deviazioni, che poi producono a loro volta, grazie a MySpace, uno strumento che usa le stesse modalità sul quale è costruito Suicide Girls, Boycott Suicide Girls. Non è l'unico Suicide Girls che si è creato un mondo per sé. Se noi, noi conosciamo una delle prime donne che si sono lanciate nella costruzione del proprio sito, Bella Vendetta. Bella Vendetta, oltre a essere una donna che assolutamente in gamba, che è da stimare, perché è stata appunto una delle prime in America che si è creata il suo sito, che si è lanciata nella produzione del suo di quello che riteneva un contenuto valido e non denigratorio della donna, perché chiaramente alle spalle dobbiamo dire che la critica al porno è una critica che viene molto dal femminile, che viene molto da quella che è l'elaborazione e la ricostruzione di un immaginario al femminile all'interno di una pornografia mainstream che denigra o tende a denigrare l'immaginario della donna, o comunque l'immagine della donna. Bella Vendetta è una delle prime, si costruisce il suo sito, è una donna ricca, è una donna, o comunque è una donna molto benestante, e questo è un altro fattore indicativo di quello che succede all'interno del mondo della pornografia. Impari a usare le tecnologie, le sai utilizzare molto bene, queste tecnologie creano profitto, questo profitto crea ricchezza. Bella donna, Bella Vendetta ha creato e ha portato insieme con sé tutta una serie di altri siti che gravitano attorno e che hanno e che creano un benessere di non poco conto. Allo stesso modo però Bella Vendetta continua a sviluppare una... ci sono persone che non riescono a guadagnare dalla pornografia. Se noi andiamo in rete e cerchiamo dei video che possano essere dei video di interessanti e non critici, non siti web come Bella Vendetta o Suicide Girls che sono immagini fotografiche, ma video o comunque film che ci possono piacere e non possono toccare la nostra sensibilità, ve ne faccio vedere uno che è molto, che piace molto, però ah no, non posso farvelo vedere perché non c'è il volume. C'è il volume. C'è il volume, ma... Cioè, non so... No, era... Aspetta che lo alzi, Scusa, ma non cercavo. Ma dovrebbe essere tutto quanto. Questo è il cavo che lo uso per me, non so dove c'è, sono... Quando ci dà una mano. Non importa. Facciamo niente. Ve ne faccio vedere un altro dove non c'è bisogno di andare a vedere la... Esistono tutta una serie di altre persone che cercano di fare una pornografia altra, e questo ve lo porto come esperienza personale senza farvi vedere il video, che cercano di fare una pornografia diversa, e una delle domande principali, tema spesso di dibattiti sulla pornografia indipendente, è come fare soldi per producendo porno alternativo. Ora va. Ma dopo, ci provo dopo. Finisco subito. Tutte queste persone che cercano di fare porno indipendente si pongono, uno dei grandi dibattiti della discussione sul porno indipendente è fare un porno indipendente che possa creare soldi. Ora, la mia domanda, o la domanda che mi pongo io ogni volta che mi trovo a tavole rotonde di questo genere è: ma se è così facile produrre pornografia in rete e guadagnare soldi, perché come vi ho fatto vedere, Bella Donna, Bella Vendetta è un sito che si basa su concetti che noi conosciamo, che sono assolutamente rispettabili, che fa un sacco di soldi, che è anche un sito che non va a toccare nessuna sensibilità di nessuno, dall'altra parte ci sono persone che invece dicono: io voglio fare porno indipendente ma non guadagno, il problema deve stare da qualche parte. Il problema, sapete dove sta? Il problema sta nel fatto che, e qui vediamo se riesco a farvelo rivedere, ma non sono abituata a questa... quello che volevo farvi ascoltare. No. Non mi agito. È piccolo questo computer, non sono capace di usare computer piccoli. Quello lì, qua? Lottalo lì? Vai! Ok. Ce l'ho fatta! Okay. Adesso ce l'hai. Poi magari lo devi spiegare perché non capisce inglese. Quelli che non capiscono inglese non... Si faranno per te, li perdonerò. No, è al massimo. Questa è riuscita a iniziare. Va bene perché c'è la... Meno male che non sono la sola, però mi solleva. Se anche il divino verde non riesce a... Vabbè dai, poi riassumo e ci spiega. È un video che... magari la gente... puoi metterlo, abbiamo una sezione materiali del seminario, metterò il link. Casa, non importa veramente, cioè, finisco così, cioè, volevo dire ancora due cose che mi interessava dire che sono più interessanti. Questo video era rilevante per me perché chiariva il segno del perché tutti i discorsi sulla pornografia indipendente si spingono a chiedersi come mai non è possibile farla e invece sul perché effettivamente notiamo che pornografia in rete esiste e ha un suo guadagno continuo, perché quelli che fanno pornografia indipendente fanno metapornografia, cioè la pornografia indipendente sulla quale noi continuiamo a insistere non è reale pornografia, cioè la reale pornografia che è, se vogliamo dare una definizione che io aborro perché non mi piace più definirla la pornografia, ma comunque in qualche modo tocca l'espressione visiva di genitali, l'espressione visiva di atti sessuali e anche sonora, tutta la pornografia indipendente che vuole essere così non fa vedere queste cose. Non le fa vedere, ma gioca sul significato implicito o gioca su quelli che sono le possibili implicazioni di fare pornografia all'interno della società dell'oggi. Quindi è inutile questo ragionamento, cioè lo trovo che sia assolutamente sbagliato, perché come appunto dicevamo prima, la pornografia del do it yourself è possibile farla ed è possibile anche arricchirsi. Io conosco moltissime persone che sono donne come me o uomini come me, soprattutto nel mondo dei gay, che vendono o comunque fanno sesso in rete e grazie a questo guadagnano. A proposito appunto dei gay e delle donne in rete, mi interessa fare notare due filoni interessanti di quella che è la pornografia in rete. La gay community è una delle community che usa di più sistemi e piattaforme del web 2.0 per fare sesso, cioè posti come Gay Romeo, che ha una grafica che io trovo tra l'altro assolutamente simpatica e interessante, cioè non è per niente, è una bella grafica, ancora più bella se vogliamo è quella del... Questo è The Snude... Questo è, dicono gli amici gay, dicono che sia the top off della piattaforma di comunicazione. Un altro tanto per farvene vedere giusto le prime pagine, Gaydar, che è anche affiliato a Luca Assassina di Roma, non so se con Mario Mieli, eccetera, eccetera, che è il luogo commerciale dove ci si incontra, eccetera, eccetera, già meno la grafica, già, a me non mi piace di meno. Ma ti faccio una domanda, in che senso sono 2.0? Te lo spiego subito come sono anche 4.0. Sono 2.0 perché queste comunità come Facebook, come MySpace creano condivisione. Cioè tu entri in questo sito, hai il tuo profilo, il tuo profilo è assolutamente descrittivo, fino nei minimi dettagli. Io sono in tutti questi tre siti, perché sto cercando di... volevo capire come funzionava. Per fare il profilo ci ho impiegato mediamente dall'1 ora alle 2 ore per farmi il mio profilo, nel senso che mi chiedono come sono fatta, quanto sono grande, dove sono alta, come ce l'ho lungo, come ce l'ho grosso, che tipo di posizioni mi piacciono. Questi qua sono dei Facebook per comunità gay, eppure mi chiedono come è fatto il mio pene. Ora, ed è evidente ed è palese che io, una persona che entra qua dentro, vuole fare sesso, ma non vuole fare sesso online, vuole fare sesso fisicamente. E allora cosa accade in queste piccole situazioni? Ci ho provato, mi sono confrontata. Per fare una statistica media, se io vado in visita a Bruxelles, faccio un esempio, e ho voglia di fare sesso, in neanche mezza giornata riesco ad avere 5 appuntamenti di sesso. E sono tutti quanti, secondo testimonianze che ho e che interviste che ho fatto, sono tutti quanti, chiacchiere che ho fatto più che interviste, sono tutti quanti assolutamente veri. Cioè io posso in mezza giornata prenotarmi 5 appuntamenti sessuali, per cui sesso non a pagamento, che avvengono grazie a Gaydar, Gayromeo, Desdude.com, più le miliardi di altre piattaforme che ci sono. Ora, questo qua supera il Facebook, perché il Facebook, come dicevamo prima, vuoi diventare amico mio? A parte che io mi chiedo ogni volta, ma perché devi essere amico mio? Giusto appunto, cioè magari non voglio essere tuo amico, o magari non ho voglia che tu, amico mio, mi guardi in quel momento, in quel frangente lì, perché... Volevo dire appunto una cosa, cioè intaccano, che ha a che fare molto con la sessualità, intaccano il mio genere online, cioè io voglio avere multi-identità online e a me Facebook intacca la mia identità multipla online. Sì, infatti poi sono anche in posti come questo che mi interessano più, che sono dal punto di vista del sesso sono molto più interessanti di Facebook, e che sono il parallelo di Facebook. Per farne un profilo in Gainomea, ci ho impiegato un'ora, per farne in Fat Life ci ho impiegato 3 ore. Tutto, addirittura c'era una cosa che io non sapevo. Nel senso che in qualche modo, non sono un'esperta, permettetemi di dire, ma in qualche modo ho una vaga conoscenza di quello che significa, di quello che è il mondo della pornografia. Ci ho impiegato 2 ore per spiegare tutto quello che ero. Quindi, dal mio essere multidentitaria nelle mie possibili identità all'interno delle Andranba e sexo deviant, proprio il sì. Andranba e sexo deviant. Sì. Secondo me è un ottimo esempio, cioè io lo trovo a parte che è molto interessante la vivere lì dentro. Direi che il problema della privacy qui ancora qui, cioè vanno proprio nel link o nella tua... Sì, ma ecco, allora il discorso della privacy lo volevo fare appunto a proposito di Fat Life e di Gay Romeo, cioè che privacy c'è in Gay Romeo? Cioè io non ho privacy, io entro in Gay Romeo perché voglio avere quanti più rapporti sessuali possibili, io non ho voglia di avere un'identità multipla, io voglio avere un'identità riconosciutissima, perché la mia identità deve essere tanto riconosciuta, perché io voglio fare sesso, tanto voglio fare sesso che voglio andare a Bruxelles e avere 5 appuntamenti, sono 5 persone che mi conoscono, non solo per il mio nickname, ma per come sono fatto, per come ce l'ho lungo, per come ce l'ho largo, per quelle che sono i miei desideri sessuali. Quindi non c'è, cioè non si vuole tutelare la privacy, non si vuole tutelare la multidentità, si vuole, cioè il porno del 2.0 è un porno tremendamente specifico, è un porno tremendamente, cioè, che punta direttamente con le lunghe, cioè pezzettini di mancato, queste identità vengono poi rivendute, vengono commercializzate. Ma allora, se tu, normalmente chi usa Fat Life, io conosco 2 persone che usano Fat Life, e sono persone che usano Fat Life, ma al contempo magari hanno anche la loro webcam con la quale guadagnano e fanno fetish. Questo è il punto, però. Cioè, tu dici che vuole fare porno. Io proprio credo che fai in mente se può usare il microfono. Perché no, però posso, sì, volevo magari apriamo. Posso venire? Perché devo dire ancora 2 cose. No, volevo interromperti, però mi sa che. Cioè, già. Vabbè, ma non piace il porno come al solito, non è una cosa che disturba. l'altra contraddizione in rete, cioè a parte che i Romeo, sono le nuove generazioni. Le nuove generazioni usano la rete Web 2.0 molto di più di quanto facciamo noi. Una, ne ho presa una a caso, non è per niente a caso, ma per me è a caso. Gli emo, no. Oddio. No, invece sono importanti. Urban Dictionary, cos'è che è emo? Emo sono delle persone che, aspettate perché lo guardo qua perché se non vedo niente, no? Gli occhiali. E mettono in questione la loro sessualità, ascoltano ogni forma di emozione. Ecco, no, perché quante volte c'è la parola sessualità, omosessualità, sì, impotenza? Cioè, la descrizione di chi è emo è una descrizione che ha strettamente a che fare, cioè è una moda, è una delle mode che, nella mia percezione, ha più a che fare con il concetto di sessualità. Ora, non lo faccio perché ci impiego tantissimo, volevo farlo, ma non lo farò. Se voi andate in Google e digitate emo e immagini, o emo e quant'altro, non viene fuori un'immagine porno a pagarla il cielo. La prima immagine che viene fuori in Google, selezionato la lingua inglese, che è quella più vasta, è un'immagine emo, punto di domanda, porno, bleh. Ora, com'è possibile che la moda più giovanile, che il concetto più che viene descritto con chiaro riferimento a quelle che sono dinamiche sessuali, perché si parla si è bisessuali, cioè è fondamentale la bisessualità all'interno dell'emo, è fondamentale il discorso della depressione, dell'impotenza, perché ci sono tutti quanti concetti che sono assolutamente legati. Eppure se tu usi un motore di ricerca come Google e abbini la parola emo e porno, non viene fuori il concetto di porno. Sono stata ad una conferenza recentemente e parlavamo di emo con questo personaggio qua. Ah, gli emo lo sapete tutti chi sono, spero. Dai, non so. Sì, no, cioè, sì. Prendo per... Per il popolo della rete. La rete lei, cioè, ho messo la definizione online. Sono i giovani complicati e stretti. Sono i giovani con la frangia storta, con la frangia storta, con i pantaloni stretti, con che, i Tokyo Hotel che piacciono tanto, eccetera, eccetera. Dai, sono quelli. A un certo punto mi è capitato di andare a una conferenza e ho incontrato Harry Busmas, che non mi ricordo mai come si chiama, un uomo... è molto interessante. Quest'uomo appartiene alla chiesa evangelica olandese ed è particolarmente interessato alla sessualità. Lavora quasi solo sulla sessualità, è uno dei personaggi più famosi in Olanda oggi perché ha sviluppato questo programma che si chiama 40 Days Without Sex. Lui si è rivolto esplicitamente ai giovani emo dicendo che loro hanno un uso continuo di sessualità, cioè fanno sessualità in continuazione, perché i giovani d'oggi hanno, ma la fanno in maniera sbagliata. Ora mi sono interrogata perché Harry Busman della Chiesa Evangelica va a guardare gli emo e gli chiede gentilmente di non fare sesso per 40 giorni e soprattutto perché questi giovani di 40, di 18 anni accettano che uno gli vada a dire di non fare sesso per 40 giorni. E la risposta è perché i giovani, parlando con Busman e mi ha dato pure ragione, perché i giovani di 18 anni non gli interessa fare sesso. Cioè, non gli interessa fare sesso quando gli viene richiesto, se fare sesso o non farlo è una questione di popolarità o meno. Il concetto principale non è come fai sesso e quindi quali sono le possibili varianti del fare sesso, ma è farlo, perché nel momento in cui lo fai sei parte di una comunità che vive della sessualità. Cioè, i giovani fanno sesso, lo fanno sesso molto più di quanto probabilmente lo facevamo noi, ma non sono interessati al sesso in quanto sesso, ma sono interessati al sesso perché non si può vivere oggi senza essere completamente assorbiti dal sesso. Qualsiasi cosa tu apri, qualsiasi cosa tu fai, vivi nella rete e i giovani vivono in rete, è strettamente connessa ad un'immagine pornografica. Ed Harry Busman, che è uno della chiesa evangelica e che è assolutamente famoso in Olanda, eccetera, eccetera, che vede, la vede completamente all'opposto di come la vedo io, alla fine di un ragionamento ha dovuto anche lui ammettere che infatti questo è il concetto, che è il problema allora della sessualità in rete. Se mi interessa pensare a una sessualità diversa, concludo, volevo dire delle altre cose, a una sessualità diversa da quella mainstream, per me non è il discorso sul sesso e non è nemmeno fare un video fatto meglio, perché ci sono fior fior di registi che sanno descrivere la pornografia molto meglio di quanto posso farlo io, ma è invece insistere sulla possibilità di fare sesso e come viene fatto, come fare un sesso che possa essere un piacere sessuale per entrambi. Cioè, quello è il ragionamento che invece è molto più interessante. Quindi la produzione grafica e la produzione online dal mio punto di vista è inficiente, cioè non è utile, se non esiste alle spalle una realtà di una comunità condivisa che fa sesso mentre ne parla. Cioè, non sto acclamando alle orge, chiaramente, ma per quello anche ieri quando mi veniva fatta, è stata fatta la critica su Come to Cut, ho risposto io, è un momento, perché è molto più interessante creare contesti reali grazie al networking della rete, che soprattutto per quanto riguarda il sesso, che ragionino in sede e in loco sul sesso, che pensare invece a una descrizione della sessualità che vive all'interno della rete. L'ultimo sito che in realtà volevo farvi vedere, che a me attira moltissimo la mia attenzione perché sono una persona assolutamente contraddittoria e sono ancora in via di sviluppo nelle mie teorie sul fare, su cosa succede se nel porno online, wefeelfine.org. Wefeelfine.org è un sito in processing che immagino tutti quanti voi conosciate. Lo trovo assolutamente bello. Grazie a Wefeelfine io posso cliccare, posso chiedere. E spiega perché non conosci, ve lo sto facendo vedere. Cioè, fermatevi, già vedete che non sono capace molto con questa macchinetta. Vogliamo metterti alla prova. Ho visto, cioè. Wait patiently, c'è capito, wait patiently. Okay. Beh, se non ci riesco ve lo dico prima, così poi dopo possiamo passare. Wefeelfine.org mi permette di vedere, ho la possibilità di scegliere un milione di sentimenti o sensazioni, grazie. E grazie a queste andare a vedere chi c'è nel World Wide Web che prova queste emozioni e mi compaiono sullo schermo gli script o comunque le cose legate a quell'emozione. Io chiaramente sono andata subito a guardare Orny, chiaro. Vedete, qui c'è Feeling All. All, tutti quanti Feeling. Andiamo a cercare subito Orny, giusto perché rimane. Cos'è che sei? Io, a me mi avete detto, perché è stato tardi. Non dovevo cercare Orny? No, no, per voi, capire te. Tra tutti i film. Era sua, era sua. Oh, no, no, era sopra. Ho capito, cioè, non è così, ve lo dico che non è così semplice. Fermati, fermati. No, Hoppy. Ecco, c'era. No, difficile, eh? No, c'era, non è possibile. Ma non c'è un modo da tastiera, tipo uno scrive fuori. Esatto. È troppo facile. Non ci riesco a dire. Una lista di secondi davanti, una lista variabile, capito? Con degli effetti quanti. No, è qua. Ecco, cavolo, non so come. Horrible, no. Correndo. No, piano. No! Tu già lì! Quello qualsiasi! Non ci riesco, mi giuro! Cioè, è impazzito! Ma se mi scrivi sulla tastiera, vai! Cioè, ma va avanti da solo! Sì, vai, cioè, è una roba diabolica! Mi giuro che l'ho fatto! Vabbè, quanto sta che Tatiana, c'ha dei salti quanti. Sì. Secondo me è la connessione che non funziona molto bene. No, ma sicuro che l'ho fatto ed è molto divertente. E ve lo volevo fare vedere perché da una parte ho tratto delle conclusioni assolutamente. Ho bisogno di farlo anch'io sul discorso che facevo prima sugli emo e quant'altro, perché è importante secondo me prendere delle posizioni, perché appunto parlare di pornografia in rete è veramente difficile oggi per le possibili implicazioni, per le possibili complessità del discorso, e quindi prendo posizione. Dall'altra parte però poi dopo il web 2.0 nelle forme antagoniste come sono la possibilità di sviluppare un software libero come Processing e la creazione di siti come wefeelfine.org attraggono la mia attenzione, perché l'idea di poter andare, di poter digitare Orny e di vedere tutte le persone che in questo momento, in una settimana, perché poi c'è weather, l'età che hanno, il gender, dove sono situate, eccetera, eccetera. Posso guardare anche nel 2005 quelle che erano Orny nel 2005, se vedete lì in alto a destra. E per me è successo, cioè, questa è una potenza del 2.0 che a me eccita, cioè mi eccita mentalmente in termini di curiosità mentale. Quindi sì, web 2.0 non mi piace perché in fin dei conti comunque mi crea delle problematiche rispetto a cosa significa, dov'è il corpo nella sessualità, bellissimo il cyber sex, ma il corpo gode nel cyber sex, vi ricordo. E dall'altra parte comunque appunto, cioè, con gli sviluppi tecnologici che ci regalano chicchette come queste. Avevo altre cose da dire, ma è veramente troppo tardi, hai ragione Tatiana, quindi chiudiamo e passiamo alle domande a tutti quanti. Grazie. Magari venite qua a fare le domande, così siamo nello streaming. Anzi, rimaniamo nello streaming. Se lo streaming, dai. Sono nello streaming. Vabbè, intanto io ho trovato tutte e quattro le relazioni molto molto interessanti, quindi insomma vi ringrazio di queste relazioni. Ma alcune questioni che volevo sollevare. La prima rispetto all'affermazione di Antonella, giusto? Annalisa, scusami. Appunto, di Annalisa, quando parlavi di questo capitale che almeno nelle sue forme più avanzate guarda ormai la proprietà privata come ad un alzavolo di cui liberarsi. C'è per esempio il lavoro di un economista come Enzo Rullani che va nella direzione di sostenere questa tesi, cioè quando Rullani, facendo una ricerca da economista, parla della legge della diffusione legata a tutto quello che sono i prodotti dell'economia immateriale, ci dice che il valore di un'idea, lui ovviamente riprende il lavoro di Tard, ma l'hanno ripreso altri studiosi come Maurizio Lazzarato, un giovane studioso amico, Matteo Pasquinelli, ha ripreso anche questi discorsi. Cioè, questa legge della diffusione ci dice che ci sono dei modelli matematici che provano il fatto che un'idea, un prodotto immateriale, acquista valore attraverso la sua diffusione proprio, e attraverso la sua diffusione libera, perché è questo il modo di diffondere più velocemente un'idea, un prodotto immateriale, che basa anche il suo percorso di valorizzazione sulla velocità di questa diffusione. Per questo anche la critica ha una crisi rispetto al concetto di commons, in particolare di creative commons. Certo, è ancora importante fare prodotti in creative commons, ma in qualche modo, se non è già fatto, si prefigura uno sviluppo in cui creative commons saranno strumentali comunque a dei processi di valorizzazione capitalistica. Da qui l'idea anche di procedere invece verso una cosa diversa, che sono i commons autonomi, che ancora non sappiamo bene come potranno essere, ma sicuramente partono comunque almeno dalla descrizione della crisi, delle difficoltà rispetto a questa logica dello sharing, logica del creative commons. È chiaro che non si butta il bimbo con l'acqua sporca, cioè benissimo che si facciano cose creative commons, però benissimo sapere che c'è questa tendenza avanzata, almeno le più avanzate del capitale, che usano il creative commons nei processi di valorizzazione e vedono addirittura la proprietà privata come un elemento appunto di rallentamento di questi processi di valorizzazione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, scusami, il fatto che nell'ambiente web siano gli intermediari a fare i soldi, visto che siamo anche un gruppo, insomma, di persone che fanno anche gli artisti, questa questione degli intermediari è anche visibile al di fuori del web. Pensiamo ad un lavoro di un curatore famosissimo che molti qua conosceranno come Ansuri Cobrist, che ha curato biennali, che è stato direttore del Museo della Ville di Parigi, adesso sta alla Serpentine Gallery, quindi una delle persone che maggiormente negli ultimi 10-15 anni ha avuto visibilità nell'ambiente artistico. Bene, se noi leggiamo alcune sue dichiarazioni programmatiche, alcune sue interviste rispetto al proprio lavoro, lui dice sostanzialmente: ma io ho smesso di dire, io faccio un passo indietro, io lavoro come connettore, metto in comunicazione le persone. Non a caso, sì, adesso ha pubblicato un saggio, se non sbaglio, su Richter, un saggio classico, ma lui è diventato famoso attraverso la pubblicazione di libri di interviste, cioè volumi giganteschi di interviste. E tutta questa questione del fare un passo indietro rispetto al problema dell'autorialità, di smettere di creare ex novo, di dire in prima persona, ma di mettere in connessione, è ammantato da una retorica che riprende tutto il discorso post-strutturalista, Foucaultiano, la morte dell'autore, eccetera, ma ad un livello che è ormai puramente retorico. Perché? Perché è chiaro che ormai il capitale, il sistema, produce in rete, non solo quello del web, ma anche quello, per esempio, anche il sistema del globale dell'arte contemporanea è organizzato in rete. E chi è che ottiene potere e peso in questa rete? Ottiene non tanto chi dice delle cose, ma chi diviene un'app all'interno di questa rete, chi fa passare le connessioni, chi sa dove sono le informazioni. Questo ormai è palese per chiunque voglia affacciarsi in questo ambiente professionale: la gestione delle informazioni, sapere dove, quando, cosa, è fondamentale più probabilmente del lavoro che uno produce. Anche qui, quindi, giustamente credo che uno dei fattori che si evince anche dall'intervento di Tatiana è quello di dire, ovviamente, chi è un attivista dentro la rete, chi tiene dei progetti di social networking all'etica hacker, deve stare lontano da questa ideologia della rete. Questo ovviamente ce lo dite voi, tutte queste osservazioni rispetto alla sussunzione all'interno di dinamiche di valorizzazione, di quelli che sono i termini, il linguaggio prima di tutto dell'etica hacker, dimostrano che la rete non è di per sé un modello ovviamente democratico. Cioè, la rete deve essere strutturata in un determinato modo, bisogna fare. Ultima questione che voglio sollevare, una così forse più buttata là, però quando guardavamo il filmato, non so come si chiama, indie porno della Diesel, è evidente un altro aspetto, cioè è evidente che lì era una sorta di ironica rappresentazione di concatenazioni macchiniche come le intende Deleuze, cioè il sesso non tanto come qualcosa di atletico, ma come una concatenazione quasi rizomatica, cioè uno che si scopa il flipper, che si scopa l'animale, che si scopa la macchina dei popcorn, eccetera. Cioè, e questo ci fa capire come in qualche modo tutta questa questione anche del rizoma, cioè dell'identità multipla, cioè di questo processo proprio di concatenazione tra uomo, macchina, animale, minerale, che è un processo che è stato fondamentale per quanto riguarda tutto un percorso di decostruzione dell'identità monolitica, della decostruzione dell'identità che poi diventa identità fascista nel discorso sull'antipsichiatria portato avanti da Deleuze, Guattari. Questa questione oggi è una questione molto delicata, cioè l'identità multipla, rizomatica, è stata in qualche modo anche qui sussunta dal capitale. Il capitale lavora in rete, lavora per almeno quello più avanzato ovviamente, lavora per attrazione di differenze, valorizzazione di differenze e anche nell'arte questo si può vedere in diversi aspetti, diversi esempi, il più eclatante è Matthew Barney, per esempio, che lavora in questo modo. Vabbè, poi noi avremo uno spazio oggi pomeriggio alle 5, quindi magari la faccio finita qui. Insomma, grazie. Come sentiamo Barcalli prima? Magari qualcuno ha la sua domanda e poi rispondiamo. Sulla cosa di Diesel, ho notato che chiaramente su YouTube è l'individuo che carica dei video e c'è un nickname chiaramente. Quanto riguarda le identità multiple, probabilmente la stessa persona che aveva quel nickname con cui è caricato su YouTube, magari all'interno di Diesel è strutturata assolutamente all'interno di una forma organizzativa. Mi veniva questa. Io poi sono preoccupata che Diesel abbia imparato la parola rizomatico. Spaventa. No, magari lui no, però noi anche onestamente dobbiamo ammettere che potrebbe ricordarci questa cosa. Guarda, non ha imparato la parola, ma è il concetto. Assunto qualcuno per di questa cosa mi crea delle perplessità, cioè non perplessità. Però è anche giusto quello che diceva Gabri all'inizio, cioè non è che il capitale crea qualcosa, il capitale parassita una potenza che è una potenza, allora, insomma, certo, nostra. Cioè io sono d'accordo quando dici precariato, ce lo siamo anche voluto noi con le lotte degli anni 60-70, non è questione di tornare indietro al precariato, no, è questione di andare. Allora, diciamo, da un punto di vista generale, diciamo, il capitale è lavoro morto, cioè Marx lo definì così e non vedo ragione di non tenere questa definizione marxiana anche nell'epoca digitale. È sempre di più lavoro morto il capitale. La differenza con il capitalismo classico credo che sia questa. Diciamo, il lavoro morto dei tempi di Marx e anche fino a 40 anni fa, 30 anni fa, era un ex lavoro vivo, era un lavoro che non era più vivo. Il lavoro morto per essere capitalizzato doveva essere davvero morto, cioè il lavoratore doveva essere morto davvero, tra mille virgolette, ma insomma, perché i tempi di concretizzazione e di trasformazione della quantità di saperi che circolavano dentro la società in routine e quindi in meccanismi di formazione del valore, e era ancora lungo, cioè c'era ancora un delay, c'era un distacco tra l'esperienza del lavoro vivo e la sua trasformazione in capitale, in lavoro morto. La grande novità mi sembra sia questa, che il lavoro morto di oggi è un lavoro zombie, cioè è un lavoro che è semi, no? È semi-morto, semi-morto e semi-vivo. I meccanismi di diciamo, valorizzazione cominciano a funzionare quando ancora il lavoro vivo funziona, anzi, funzionano in tempo reale. Questa è la grande novità delle, diciamo, tecnologie informatiche. E questo però, secondo me, è questo che ci pone il problema. Noi abbiamo, io parlo per me, la mia generazione, ma vedo anche altre dopo, noi siamo sempre stati abituati in qualche maniera a lavorare in come dire, differita sulla risposta, sulla anche tutta l'idea di pensiero critico. È questo, la critica è qualcosa che guarda, immagazzina, rielabora, e solo dopo che abbiamo guardato, immagazzinato, rielaborato, allora buttiamo fuori qualche cosa che metta in crisi, che critichi, che dica, ma la critica è questo, è guardare da lontano e quindi guardare da un tempo e da uno spazio lievemente differenti quello che tu sei. Oggi non è più possibile fare così, questa cosa non c'è più, non c'è più spazio per questo tipo di pensiero critico. La risposta bisogna darla in tempo reale, è dentro il processo che si deve mettere. Allora io direi che l'unico concetto che ci è uscito fuori un po' utile in questo esempio è quello di Taz, opportunamente rielaborato, perché nel modo in cui lo disse Achim Bey 20 anni fa, oggi non è, però quello è l'unico modo, cioè è mettere la pietruzza, cioè all'interno del meccanismo che sta funzionando, e quindi è per questo direi il web 2.0 è indubbio che sia una delle diciamo, manifestazioni più chiare del capitalismo contemporaneo di produrre valore, come si è dimostrato in grado di fare negli ultimi 20 anni, 30 anni, di produrre valore non respingendo diciamo il conflitto, ma metabolizzandolo con grande forza. Allora è chiaro che non buttiamo i bambini, è chiaro che facciamo libri Creative Commons, però sappiamo tutti i limiti del Creative Commons, i limiti della cosa di lessica, eccetera, questo è chiaro. Però, allora, usando Facebook, usando Creative Commons, usando il web 2.0, perché nessuno ci dice di toglierci, bisognerebbe diciamo progettare ed essere in grado di farlo abbastanza rapidamente, delle pietruzze, dei lievi movimenti retrogradi, qualche cosa che non inceppi astrattamente la macchina, ma che sia in grado di deviarla piano piano, con alcune, nessuno chiede, no? E questo, la logica della TAZ era, diciamo, questa. Beh, insomma, che dobbiamo fare? Facciamoci una piccola zona in poesia. Quindi l'idea, trovo che l'idea che era stata avanzata in lista, di provare a fare una piattaforma di diciamo social networking nostra, non per soddisfare un cazzo di gusto identitario che spero nessuno di noi abbia, ma per provare a vedere se si può introdurre una logica tipo TAZ dentro un processo di questo tipo. Sarà qualcosa di poco all'inizio, come io non è che ho criticato Canto Cazzi ieri sera, cioè criticato nel senso, mi piaceva capire il modo, perché mi chiedo, io insomma vari anni che in ogni posto dove vado mi chiedo, ma c'ha senso? Ma che cosa cazzo facciamo? Perché perdo 3 giorni per fare questa cosa? Diciamo, riesco a diciamo, nuovamente introdurre in maniera diciamo diversa quello che facevo un tempo con il pensiero o con l'azione critica o con l'azione diciamo antagonista, e oggi non posso più farlo nello stesso modo, ma riesco, diciamo, riusciamo a trovare un modo per introdurre queste logiche diciamo come dire lievemente diverse. Questo credo sia il senso della cosa. No, ma infatti rispetto anche al discorso che abbiamo fatto ieri sera, secondo me la differenza fondamentale sta proprio sulla consapevolezza di utilizzo del mezzo stesso, che è poi un concetto che ci appartiene, di cui abbiamo sempre parlato e discusso in tutto il vario sviluppo dell'etica hacker. Infatti riguardo al discorso del lavoro che tu fai, io dico la vera differenza sta nel fatto che chi sta all'interno di Facebook da una parte produce anche lavoro inconsapevole, perché tu in quel momento non sai che stai lavorando per qualcuno, un'entità esterna che poi realizza delle metriche dei tuoi dati. Da una parte è consapevole perché tu scegli di stare su Facebook, però dall'altra è inconsapevole perché non sai che stai producendo lavoro. Quindi per me l'elemento fondamentale sta anche nel fatto della consapevolezza di esserci dentro, cioè non è che uno deve rifiutare Facebook, ma come dici tu, allora proviamo a deturnarlo. Questo è un altro degli aspetti proprio base del post-fordismo, cioè mettere a valore le relazioni, mettere a valore la comunicazione. Cioè, si faceva il discorso siccome avete fatto un discorso sulla questione dell'assunzione da parte del capitale di tutte queste nuove forme, ha senso, ci chiediamo se ha senso, mettere una pietra nel senso di costruire quando poi invece la forma che adotta il capitale è quella della continua modificazione. Cioè ha senso costruire una piattaforma che comunque poi è stabile, è ferma e anche quella è identitaria, è molto è bloccata, per cui comunque anche su quella la questione della per costruire un social network noi della lista magari cioè, dovremmo riflettere molto anche sul fatto di costruire qualcosa di come costruirlo, però poi lì ci perderemmo nelle questioni tecniche, nelle questioni di programmazione, le questioni che hanno che poi allontanano e che sono veramente poi il lavoro e cioè, non so, ho parecchi dubbi sulla questione di costruire o di mettere pietre, perché le pietre sono una cosa che sono ferme, cioè sono ferme, sono statiche, sono, possono essere acquisite in qualsiasi momento, cioè acquisite in qualsiasi momento. E poi volevo chiederti, non so, io non posso fare avanti e indietro, ma se avevi analizzato il fenomeno di YouPorn, che durante il discorso ne hai parlato. Non l'ho perso, però l'ho annunciato. Sì, no, perché cioè, non è una community lì, è come proprio, nemmeno YouTube poi è una community, cioè non ci sono relazioni YouTube. YouTube uno fa un video, lo mette online, è un archivio di tantissimi video, praticamente. Sì, vabbè, commenti ma che non servono assolutamente a niente. È un nick e basta, però può essere chiunque, cioè posso avere 25, ma non è che un nick mi identifica o serve per avere relazioni con qualcun altro. È soltanto un archivio di tanti video. E YouPorn è così, però è fatto cioè con video sia mainstream, non mainstream, di tutti i generi, ma anche lì viene caricato e poi allora anche lì a che pro. Cioè comunque che tipo di. Tu produci valore perché vuoi distribuire i video, però non ci sono relazioni lì, cioè non c'è l'idea del contatto, della comunità, c'è soltanto mettere nel materiale su internet e basta. Il YouPorn è enorme e io non sono d'accordo sul fatto che anche YouPorn raccolga prodotti che non sono mainstream. Per me, io non ho ancora trovato niente, forse ci confondiamo col cos'è il mainstream. Nel senso che YouPorn fa vedere dei pezzi, perché comunque non possono essere particolarmente lunghi, di cortometraggi in cui tendenzialmente l'immaginario pornografico è quello abbastanza, se si tratta di maschile e femminile, di una definizione della sessualità maschile che predomina su quella femminile, se no ci sono le due donne lesbiche che tendenzialmente nella maggior parte dei casi, YouPorn non è assolutamente frequentato nella comunità lesbica, tanto perché lo sapete tutti quanti, anzi disprezzano molto YouPorn, la comunità lesbica in generale, sia quella, tutte le varie varietà della comunità lesbica. E i gay, la comunità gay ha talmente tanto altro cosa interessante che guardano a YouPorn come una briciola nell'universo delle loro possibilità. Per farti un esempio, Gay Romeo, che forse ho fatto, che forse hai visto prima, o thesnude.com, sono siti che hanno qualità di corti e di fotografie che sono mille volte superiori a YouPorn. YouPorn è un fenomeno, quindi nella maggior parte dei casi legato alla sessualità eterosessuale e eteronormata, tendenzialmente. Generalizzato, esiste, cioè, sì. Appunto, essendo però di fatto una delle tante piattaforme che giocano, che sono legate al concetto di 2.0, ed essendo di fatto un luogo di condivisione di materiale, il problema è che tipologia di materiale stiamo noi condividendo? Cioè, ed è secondo me l'immaginario è la pornografia che più di tutti risalta agli occhi sul contenuto di quello che noi condividiamo. Cioè, anche Facebook, il discorso che stai facendo prima tu sul tempo reale e il tempo. Io veramente ero abituata, anch'io sono giovane, ma a pensare indifferita al mio tempo critico, cioè io avevo tempo di ragionare, adesso io non ho tempo, perché se io faccio un ragionamento metapornografico, cioè una critica al porno, elaboro un prodotto pornografico, nel 90% dei casi il mio prodotto in due secondi viene sussunto da un sistema di mainstream, viene rielaborato, viene rimesso sul mercato e qualcun altro ci guadagna al posto mio, non che io ci voglia guadagnare, per carità del caso, anche se non volessi guadagnare, è irrilevante. Cioè, quindi YouTube è un'ennesima piattaforma che se anche io domani mi metto a fare sesso con una, con un cavolfiore, e questo sesso con il cavolfiore è particolarmente divertente, stai sicura che dopo domani su YouTube mi troverò qualcun altro che l'ha fatto in maniera diversa, perché è tutto modificato chiaramente, ma in tempo reale, cioè in un tempo che io non riesco più nemmeno a calcolare. E questo è lo giochino qua, scusate se me ne dico, ma sul porno è stato fatto ancora, cioè sono 10 anni che il porno va avanti su questo gioco. Cioè qualcuno ha fatto una critica, qualcuno diceva prima del video della conversa, sul il ragazzo che è intervenuto per primo. Cioè, io quella vi volevo dire che non l'ho detto, ma chiaramente io questo giochino qua dell'usare le macchine o gli strumenti per fare sesso, noi lo facevamo, abbiamo costruito una cosa analoga 6 anni fa con le mie amiche, quando facevamo un ragionamento sulla una possibile un immaginario al femminile diverso e il possibile uso della tecnologia nella sessualità al femminile. Cioè, 5 anni fa, non adesso. Poi la Converse lo prende e ne fa un video, la Diesel lo prende e ne fa un video che spopola, perché su YouTube adesso se cliccate ce lo guardano la qualunque. Cioè, quindi l'abbiamo imparato da mo' questo giochino. Il punto è, come io sono d'accordissimo con te, i coni d'ombra, cioè più non nelle zone d'ombra, i coni d'ombra, perché a partire da un punto riuscire ad allargare il più possibile ad una comunità reale, ma reale in termini non perché sono contrario al concetto di virtuale, ma reale nel senso che siano veramente persone con le quali ti stai rivolgendo, disposte a condividere con te un percorso di allargamento di conoscenza, ma che deve essere vissuto in un percorso, perché se no, cioè, noi non veramente non ha mai senso nulla, perché non facciamo in tempo, perché non abbiamo, meccanicamente non abbiamo tempo perché il nostro lavoro possa avere senso in altra maniera. Scusate, c'è ancora di ora perché sono già le 2. Io proponevo, se ci sono alcune robe di questo tipo, potrebbero essere, se voi volete, rimandate a domenica mattina, che avevamo deciso di discutere un po' di questa questione della piattaforma, eccetera. Riprendiamo i temi che poneva anche Lobo prima, su cui ho le cose da dire, ma non le dico adesso, e perché se no non ce la facciamo, direi, no? Sì, poi naturalmente abbiamo un potente mezzo della Mailing List che ancora sopravvive nonostante il web 2.0, quindi. Anche da lì abbiamo il wiki che spero continuerà e i nostri materiali del seminario, quindi siete invitati tutti anche a proporre i vostri materiali critici sul web 2.0 nel wiki.